4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata ancora una volta, bentornati a Quattro Ruote e Dintorni. Abbiamo tantissimi temi, quindi iniziamo subito alla grande con la possibilità di ricordarvi anche i due indirizzi che ci servono per metterci in contatto: www.radio24.it, nella sezione programmi, ovviamente cliccate su Quattro Ruote e Dintorni e troverete tutto l'archivio storico, comprese le voci che sentirete questa sera da lunedì sul web, disponibili per i tempi futuri. E poi un semplice indirizzo email per giungere fino a noi: 4ruote@radio24.it. Allora, la prova della settimana si concentra su un mezzo davvero particolare che è difficile categorizzare, è la KTM X-Bow. Stiano attenti gli amici delle due ruote, perché si tratta di una macchina. È la prima macchina omologata dalla KTM. Già qualche anno fa l'aveva fatta vedere destando a scalpore, siamo riusciti a salirci sopra sulla pista dell'OMP a Ronco Scrivia e l'abbiamo provata. E quindi con Alessandro Carcano, che al telefono, andiamo a commentarla questa serata. Caro Alessandro, bentornato. Buonasera Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori. Alessandro ci fa compagnia da Quattro Ruote. Dopo di lui ci sarà la possibilità di sentire due voci della OMP, visto che eravamo in zona, abbiamo visitato per la prima volta questa azienda importante, che l'anno scorso è passata di mano dalla storica famiglia Percivale a quella del Prato più altri azionisti. Federico Minoli, ex Ducati, è tra l'altro vicepresidente, e quindi un'azienda più che viva. Chiuderemo con il mercato dell'auto, cercando di capire da Paolo Malagodi come è andato nel mese di maggio, e poi un'inchiesta su cinema e auto con Laura Confallonieri di Quattro Ruote. Tutto questo fino alle 21.45 in nostra, vostra compagnia. Alessandro Carcano, dati la parola per fare un'introduzione ai nostri ascoltatori su questo strano mezzo, la KTM X-Bow. Sì, è proprio un giocattolo, una via di mezzo, se vogliamo, pur avendo quattro ruote, tra una naked, una moto nuda, e un'auto sportiva. Diciamo subito che non ha il tetto, è una biposto pura e ha anche un parabrezza giusto risicato per l'omologazione, ma pur non essendo obbligatorio usare il casco, è fortemente consigliato. Molto bene, tra l'altro questa è una delle domande che io ho rivolto a Luca Marino, X-Bow Manager in KTM, che tra poco sentiremo, perché pensate, lui la usa proprio per strada ed è un mezzo, credetemi, davvero particolare. Sul nostro sito c'è anche la foto, radio24.it, e poi tutte le altre informazioni come sempre le trovate su quattroruote.it. Subito però vi faccio sentire la scheda che ci introduce nel mondo KTM X-Bow. Avete presente una moto? Ecco, parliamo d'altro. La vostra idea di automobile? Cancellatela. Occorre ripartire da zero. Difficile incasellare la KTM X-Bow. Un po' auto e un po' tanto moto. Una naked, nuda per l'esattezza, dove il concetto dell'essenzialità è stato portato all'estremo, tanto da considerare superfluo persino il vuoto di un bagagliaio. Nome: KTM X-Bow Street. Carrozzeria: Roadster, due porte, due posti, monoscocca portante in fibra di carbonio. Dimensioni: lunghezza 3,73 m, larghezza 1,91 m. Motore: posteriore trasversale, benzina a 4 cilindri in linea, cilindrata 1984 cm3. Potenza 240 cavalli. Trasmissione: trazione posteriore, cambio manuale a 6 marce. Prezzo: da 60.127 euro. Ecco, questi erano i dati per introdurci in questo mondo, e è il tentativo di far provare le stesse sensazioni che provano i motociclisti su una due ruote a chi vuole un giocattolo. È veramente una quarta, quinta auto, neanche una seconda o terza. Però devo dirvi la verità, abbiamo avuto l'opportunità di salirci sopra, sebbene in condizioni non perfette, e quelle sensazioni davvero si sentono. Tra l'altro è spinta dal motore dell'Audi TT, è un motore turbo veramente prestazionale, pesa solo 700 kg. Pensate che roba. Che impressione vi ha fatto, voi che l'avete provata in altra occasione su una pista vera, Alessandro? Guarda, devo dire che le cose più impressionanti sono due. Innanzitutto questi 240 cavalli sui soli 1300 kg sono impressionanti, perché la spinta ai bassi regimi è qualcosa di incredibile, quasi da moto appunto come accelerazione. Ma un altro aspetto che veramente ci ha impressionato è questa possibilità di accelerare in curva oltre ogni limite, perché c'è i dati stessi dichiarati dalla Chiazza parlano di 1,5 G di accelerazione laterale ed è qualcosa che va solo, non solo oltre i limiti di un pilota, ma anche proprio oltre i limiti delle normali macchine, sia sportive che figuriamoci di serie. Eh sì, decisamente impressionante. Allora proviamo a sentire la voce anche di KTM, rappresenta la prova l'Xbo Manager, si chiama Luca Marino, gli abbiamo intanto chiesto anche dal suo punto di vista una definizione di quest'auto. La Crossbow è la prima auto di KTM, nasce dall'esigenza di diversificare ovviamente i prodotti di KTM, che è ovviamente monopolista nell'enduro e nel motocross, ma da poco ha cominciato anche con il settore stradale e ha deciso di concentrarsi anche nel settore dell'auto. E il primo prototipo è stato presentato a Ginevra nel 2007, l'idea era quello di lasciarlo come prototipo, però le richieste sono state talmente elevate che si è deciso di optare per una produzione in serie. Inizialmente l'idea era quello che la produzione fosse direttamente da parte di Dallara, però dato il numero di richieste si è pensato ad una produzione in serie direttamente da parte di KTM, quindi con uno stabile di una compagnia direttamente di KTM che attualmente è locata in Graz, che è nel sud dell'Austria. Che tipo di auto è questa? Che motore ha e chi la costruisce esattamente dove? Allora, il motore è un motore Audi, un turbo TFSI, lo stesso che monta l'Audi TT o il Golf GT. Sono 240 cavalli per circa 790 kg di peso, quindi delle prestazioni veramente impressionanti, dai 0 a 100 in 3,9 secondi e uno spazio di frenata da 100 km orari a 0 in circa 33 metri. Quindi veramente un bel gioiellino. E l'idea è quella di dare la possibilità a chi non è cliente motociclistico di avere le stesse sensazioni che si hanno sulle due ruote. Quindi quest'auto non ha nessun tipo di aiuto elettronico, non ha ESP, non ha ABS, non ha... l'unico optional è il differenziale autobloccante e nient'altro. Che numeri fa quest'auto? Per il momento ne abbiamo venduti a livello mondiale circa 300 pezzi, per la fine anno commerciale si prevede di riuscire ad arrivare circa 450-500 pezzi per quest'anno. Ci delinei il target preciso del cliente che si compra un oggetto che, ricordiamolo, è omologato per andare in strada? Assolutamente sì, la parte fondamentale di questo giocattolo è proprio che si può utilizzare per un utilizzo stradale praticamente quotidiano, nonostante comunque non abbia il tetto, quindi un utilizzo limitato sempre. L'Identikit è un cliente sicuramente di alto livello che ha già un suo parco auto e che preferisce utilizzare questo giocattolo sia per questioni d'immagine, diciamo, sia per divertirsi in pista, perché ovviamente la possibilità di divertirsi in pista è molto elevata, sicuramente più di una qualsiasi altro auto ad un prezzo molto minore di qualsiasi altra. Allora Luca, chiudiamo con le sensazioni che tu hai avuto la gentilezza di farmi provare, perché sei stato al mio fianco, io guidavo la tua auto in un circuitino, in un kartodromo molto particolare, quello degli amici di OMP. Cerchiamo di commentare insieme allora queste sensazioni. Assolutamente sì, oggi effettivamente la pista è proprio un vero kartodromo, quindi grazie a quelli di OMP che ci hanno prestato ovviamente la pista, poi non è gommata, ci sono ovviamente dei detriti in pista, quindi l'auto oggi soffriva di effetto sovrasterzante, anche dato il fatto delle gomme, che le gomme sono, a prescindere dal fatto che sono nuove, sono gomme ovviamente stradali, sono le Michelin che noi montiamo di serie sulle autovetture vendute, però ovviamente per questa tipologia di auto sono molto più prestazionali e cambiano totalmente il volto dell'auto. Altri tipi di gomme, come possiamo pensare, noi offriamo ad esempio le Toyo, le semislick, che sono anche omologate per l'utilizzo stradale, e quelle effettivamente per un uso specialistico cambiano totalmente la guidabilità e le emozioni che si possono provare alla guida di quest'auto. Non c'è servosterzo, ma direi che non serve il servofreno pure, bisogna ben mettere un'ottima potenza sulla propria gamba destra per affondare il pedale del freno. Ti chiedo, quante volte ti hanno fermato in strada perché tu la usi per strada? Ma se devo essere sincero, non mi hanno mai fermato. Mi guardano, rimangono a bocca aperta, mi seguono. Anche i poliziotti? Anche loro, soprattutto i poliziotti, che non credo che abbiano ancora ben capito che effettivamente l'auto è in regola ed è targata. Ma tu usi il casco o no? Utilizzo stradale quotidiano in città? Assolutamente no. Utilizzo autostradale, sì. Molto consigliato. Chiudiamo allora, Luca, con il prezzo, così determiniamo anche il target preciso delle persone che si rivolgono a questo che tu hai chiamato un giocattolo. Il prezzo parte nella vettura base da 60.000 euro IVATI, per arrivare a circa 100.000 euro i vati nella configurazione al top delle possibilità. Bene, questa era la voce di Luca Marino, X-Bow Manager in KTM, l'auto che stiamo provando qui all'interno di Quattro Ruote e dintorni. Vi ricordo tutti i dati, le schede, anche le voci degli ospiti, potete riascoltarle su radio24.it nella sezione programmi all'interno del nostro che inizia per 4, con il numero 4, ruote e dintorni. Quattro ruote e dintorni. Alessandro Carcano di Quattro Ruote, nostro ospite, e stiamo parlando di KTM X-Bow. Come ti è sembrato lo sterzo di questo kart omologato, mi viene da chiamarlo? Ma guarda, è molto diretto in tutte le manovre. Il fatto che non sia servo assistito è chiaro che a bassa velocità complica molto le manovre. Certo. Però è chiaro che comunque è un'auto da portare in pista questa, quindi questo è un aspetto di secondo piano. Decisamente. Poi c'è una curiosità, così parliamo anche delle chicche, c'è un optional che vale ben 1200 euro e si chiama estrattore del volante. Uno dice, vabbè, di questo posso fare a meno. Ecco, io non ci entrerei in quell'auto, sono abbastanza alto senza l'estrattore del volante. Lo vuoi descrivere tu? Sì, esatto, basta una pressione sul tasto per estrarlo come quello di Formula 1. Al momento sembra un vezzo, in realtà, come dici tu, per le persone sopra il 1,80 m può essere abbastanza complicato, visto che comunque non ci sono portiere e salire a bordo, quindi diventa quasi fondamentale avere questo tipo di optional. Molto bene, senti, io direi che a parte la frizione abbiamo parlato di tutto, chiudiamo quindi con questa. Sì, guarda, la frizione è modulabile, ben resistente, davvero sportiva. Questi 19 kg da premere non sono certo pochi, bisognerà anche allenarsi per quello probabilmente. Molto bene, grazie davvero ad Alessandro Carcano di Quattro Ruote, a presto, alla prossima puntata. Grazie a te e una buona serata a tutti. Già che c'eravamo, noi non abbiamo fatto altro che entrare in quell'azienda proprio lì accanto, proprietaria tra l'altro del pistino su cui abbiamo provato la KTM. Si chiama OMP, Officine Meccaniche Percivale. Quella P deriva dai fondatori, dalla famiglia che l'ha mantenuta in vita fino all'anno scorso, finché non è stata rilevata da ragazzi giovani e sembra molto in gamba. Ho avuto il piacere di conoscerli, vi restituisco la loro voce, a iniziare dal presidente della OMP, Alberto Del Prato, a cui ho chiesto un po' di storia dell'azienda. Allora, la storia di OMP è una storia di 35 anni di un'azienda genovese che si è trasferita da Genova a Ronco Scrivia, dove siamo attualmente, costituita e gestita fino allo scorso anno dalla famiglia Percivale, dai tre fratelli Percivale. Noi abbiamo acquisito l'azienda a febbraio del 2008, dove per noi intendo io e mio fratello come holding genovese che acquisisce partecipazioni, deteniamo il controllo dell'azienda e abbiamo coinvestito insieme con il Monte dei Paschi di Siena e con altri soggetti industriali. In occasione di quell'acquisizione abbiamo rivisitato completamente il top management aziendale. Io, come dicevamo, sono presidente e amministratore delegato, mio fratello e il dottor Federico Minoli sono vicepresidenti con delle deleghe per lo sviluppo del business e l'organizzazione aziendale, e abbiamo avuto un importante contributo da parte di Roberto Percivale fino a dicembre dello scorso anno. Ci racconti da che esperienza invece provieni tu e il motivo di questa impresa, di questa nuova avventura imprenditoriale? Ma io sono sempre stato nel mondo dell'acquisizione di aziende, lavorando come manager e come direttore finanziario per diverse aziende negli ultimi 12 anni. La scelta di OMP è stata una scelta dettata dalla esigenza, da un lato familiare nostra, mia e di mio fratello, di costituire un'azienda che andasse ad acquisire partecipazioni di piccole e medie aziende nel panorama principalmente italiano, aziende che devono avere delle caratteristiche principali e che abbiamo trovato interamente in OMP: un marchio fortemente caratterizzato, una storia importante, forti potenzialità. Nonostante le aziende vadano bene, quindi non facciamo ristrutturazioni di aziende quando investiamo, devono poter esprimere ulteriori potenzialità, quindi per lo sviluppo del business sostanzialmente. Parliamo di numeri. Negli ultimi 2 anni sai che le aziende soffrono particolarmente, negli ultimi 12 mesi proprio sottolineiamo spesso da questi microfoni la fatica di molti imprenditori a portare avanti l'azienda. Chi lo fa stringendo i denti, chi facendo i conti, chi col saving, che è la parola chiave ormai di ogni azienda. A voi chiedo intanto come è andato il 2008, perché c'è una sorpresa di mezzo, e come si fa ad impostare una strategia imprenditoriale in questo periodo? Avete più corto raggio? Pensate invece più a lungo raggio? Ma allora il 2008, come dicevi, è andato particolarmente bene, con massima soddisfazione nostra, perché abbiamo avuto un incremento del 5% del fatturato e abbiamo chiuso con un risultato post imposte di 1 milione di euro, che su 17 milioni e 3 di fatturato è un risultato di tutto rispetto. Devo dire che questo risultato è stato conseguito grazie a proprio gli interventi che abbiamo fatto, d'accordo con la vecchia proprietà che, come dicevo, è rimasta a gestire con noi l'azienda, ed è stato possibile indubbiamente grazie proprio alla innovazione che abbiamo portato nell'azienda nel 2008 in termini di riorganizzazione dei processi logistici, produttivi, una rivisitazione completa del marchio nelle sue varie declinazioni, nelle linee di prodotto e quant'altro. Quindi è stato un lavoro molto concentrato e molto intenso di tutti i mesi dall'acquisizione fino a dicembre. Come si fa a traguardare il futuro è sicuramente una riflessione importante da fare, che tutti imprenditori oggi come oggi in Italia, ma direi nel mondo, stanno facendo. Ognuno ha le sue ricette o strategie o linee guida. Noi preferiamo decidere di investire, come stiamo facendo, nella ricerca e nello sviluppo. Nel momento in cui ci sarà la ripresa, perché ci sarà sicuramente la ripresa, dobbiamo essere pronti con un portafoglio prodotti fortemente innovativi, fortemente caratterizzanti il marchio stesso di UMP, e quindi in grado poi di sostenere questo sviluppo, quindi certamente non fermandoci. Un'ultima cosa, Alberto, e ci salutiamo. È spuntato vicino al fabbricato anche un pistino. Lo chiamo pistino perché è quasi un cartodromo, molto divertente, tra l'altro. L'abbiamo provato oggi, ne parliamo dopo con gli amici di KTM. Ti chiedo di spiegarci la fame, la sete che hanno gli amici dei motori per i kart e come OMP può essere interessata non solo a vendere, a piazzare ovviamente i propri prodotti, ma a sfamare questo appetito. Ma per quanto riguarda nello specifico il kart, OMP da sempre è anche produttrice di kart a marchio OMP, produttrice intende di accessori di prodotti kart. Come fa a sfamare questa esigenza da parte dei kartisti è la stessa logica che mette nel racing quattro ruote da rally piuttosto che altre competizioni, cioè con prodotti di estrema qualità, fortemente innovativi, un po' dal punto di vista dei prezzi di vendita per tutte le tasche, perché il kart, sai che l'età media è piuttosto giovane, quindi non ci sono grandi sponsorizzazioni, e quindi con questo approccio riusciamo sostanzialmente a soddisfare la domanda che c'è di questi prodotti. E oltre a questo pensiamo sicuramente nel giro di qualche mese di aprire il pistino, come lo chiami te, per il pubblico. Grazie ad Alberto Del Prato, il presidente dell'azienda, e che OMP faccia sul serio si vede anche da una scelta strategica precisa, quella di mettere come vicepresidente con una delega importante Federico Minoli, ex patron di Ducati, della gestione di Ducati, ne fece un grande successo. Gli abbiamo chiesto allora di descriverci il suo impegno in OMP. Ho accettato questa sfida per nostalgia, tutto sommato, perché è uscito da Ducati. Ero ormai troppo preso dal mondo delle corse, dal mondo dei motori, e quindi mi sono guardato in giro per vedere come potessi ancora divertirmi in questo mondo. OMP, una piccolissima azienda, però molto specialistica e molto appassionata, e quindi ho pensato che qui mi sarei divertito, e in effetti poi è stato così. Le hanno proposto di fare il vicepresidente con quali deleghe? Quali sono i settori che lei segue maggiormente? Io mi occupo dell'area commerciale, del posizionamento strategico dell'azienda, dei nuovi prodotti. Questa è un'azienda molto piccola, per cui tutti fanno un po' tutto in qualche modo. L'importante è lavorare assieme ed essere appassionati di quello che si fa. Qui c'era una famiglia, la famiglia Percivale, che ha fondato questa azienda e è andata bene. Quindi il primo obiettivo è stato quello di non fare peggio di quello che facevano i Percivale, perché tutto sommato hanno portato avanti l'azienda bene. Ci siamo riusciti, e poi piano piano abbiamo portato qualche cosa di nostro, che è stata una estrema focalizzazione sulla gara, quindi sul racing. Abbiamo in qualche modo smesso di investire nel tuning e in tutto quello in cui c'è una concorrenza non specialistica. Poi dopo abbiamo cercato di capire quale fosse il nostro cliente, quale fosse il nostro posizionamento. E qui ci siamo accorti che è un po' anche come in Ducati, a dire la verità. La gente che lavora qui sono tutti appassionati di corse in auto. Il direttore della produzione, per esempio, fa le gare in salita. Il responsabile dell'estero corre in Formula 3. Nel kart ci va il responsabile Italia. Quindi addirittura una caddista fa i rally. Perché insomma, e c'è proprio gente che crede in quello che fa. L'abbiamo definito questa strategia di grassroots racing, che vuol dire un po' è anche la volpe l'uva, a dire la verità, perché non potendo permetterci la Formula 1 abbiamo detto: beh, noi vogliamo stare vicini a chi il sabato e la domenica corre dopo aver passato tutta la settimana a mettere a posto la sua auto nel suo garage. Quindi questo è il nostro cliente, questo è il nostro mondo. Senta, il fatto di, non mi rivolgo a voi ovviamente, ma alla precedente gestione, di non aver trovato un nuovo Schumacher durante l'era Schumacher, secondo lei può essere stato un errore di strategia? Beh, e ancora una volta ritorno un po' alla volpe l'uva. Io penso che il nuovo Schumacher è comunque inarrivabile nei costi per la OMP, quindi abbiamo cercato di fare qualche cosa con dei piloti molto giovani. Per esempio abbiamo avuto Senna con noi, poi Senna doveva andare a fare delle cose migliori, poi non è successo. Se fosse andato sarebbe stato con noi, ma sarebbe stato con noi perché lo era da quando correva nelle serie minori. La fedeltà alla nostra marca è un pochino quello su cui noi puntiamo, proprio perché non possiamo mettere a disposizione dei grandi marchi e dei grandi budget. Nella crisi che ha coinvolto l'auto ultimamente spunta insomma un'eccezione, l'auto storica. Sì, l'auto storica è stata una piacevole sorpresa, che devo dire viene anche qui dall'esperienza Ducati. In Ducati abbiamo fatto un po' tutta la linea di abbigliamento, era basata su un concetto vintage. Qui abbiamo visto che l'auto storica, soprattutto in Francia e in Inghilterra, ha incominciato veramente a prendere piede. Le auto storiche poi sono le auto storiche, sia quelle un po' di immagine tipo Mille Miglia, in cui noi peraltro siamo, ma soprattutto le auto storiche che corrono. E nelle auto storiche che corrono noi abbiamo fatto tutta una serie di prodotti omologati FIA e quindi specialistici che non c'erano sul mercato. Li abbiamo fatti sia per quello che riguarda il look, andando a riprendere i vecchi cataloghi dell'OMP, quindi è un vintage vero, perché abbiamo rifatto con la tecnologia nuova i prodotti che l'azienda faceva tanti anni fa. Direi che sono piaciuti, è un mercato che cresce piano piano, però anche tutto sommato andare a Rally di Monte Carlo e vedere dei nostri prodotti è qualcosa che ci fa molto inorgogliere. Ultima domanda e ci salutiamo. Svestiamo un attimo i panni OMP. Lei è riconosciuto come uno dei manager capaci di trovare la strategia giusta per un'azienda, ma poi seguire quella strategia elasticamente, no? Riuscire a cambiare per ottenere quei risultati che il mercato oggi richiede. Cosa si sente di dire ai suoi colleghi di altri settori, tutti quegli imprenditori che in questo momento hanno gravi difficoltà economiche, di credito, di accesso al credito? Beh, secondo me la ricetta è sempre quella. In un momento di crisi come questo ci sono due possibili reazioni. Una è quella di chiudersi a riccio e di giocare in difesa, e l'altra è quella un po' di buttare con giudizio il cuore oltre l'ostacolo e cercare di costruire per il futuro. Noi all'OMP con molto giudizio abbiamo scelto questa seconda strada. Siamo anche in una condizione privilegiata, non abbiamo un grosso debito, non abbiamo fatto un'operazione a leva molto alta e quindi ci accontentiamo di quello che abbiamo. Certamente in altri settori l'accesso al credito oggi è, al di là un po' di quello che si dice, sostanzialmente negato alla piccola e media impresa, e quindi c'è una difficoltà oggettiva di arrivare sul credito, e io spero che prima o poi questa cosa si sblocchi, perché sennò la ripresa la vediamo molto più tardi di quanto ci aspettiamo. Grazie anche a Federico Minoli, vicepresidente di OMP. Quattro ruote e dintorni. Allora, mercato dell'auto, dicevamo, e spunta puntualissimo Paolo Malagodi. Professor Malagodi, buonasera. Salve Roberto. Analista del Sole 24 Ore, ci conduce sempre nei meandri del mercato. Questo mese, per analizzare il mese di maggio, in realtà, come è andato maggio per i concessionari e le case automobilistiche, professore? Il dato ufficiale l'avremo, come al solito, il primo giorno lavorativo del mese successivo, che sarà in mezzo a un ponte, che però per gli uffici ministeriali, per chi si occupa di questo mestiere del mercato auto, sarà un giorno di lavoro. Esattamente il primo giugno alle ore 18 noi avremo i dati. Noi cosa possiamo dire sull'andamento di questo maggio? Che il portafoglio ordini, quello che si è raccolto nella seconda metà di febbraio e abbondantemente in marzo, quando gli incentivi si sono attuati, ha garantito un flusso immatricolativo che per poco non arriverà ai volumi del maggio 2008, quando le immatricolazioni furono 206.000. L'ipotesi è che questo maggio si concluda attorno alle 195.000, con un valore in assoluto relativamente minore rispetto al maggio 2008 per due ragioni. La prima che oggettivamente ancora non vi sono in rete tutte le unità ordinate dai clienti, in particolare a GPL e a Metano per la consegna che ormai slitta a tempi più lunghi. E poi perché questo maggio 2009 è un mese in questo anno di soli 20 giorni lavorativi, mentre l'anno scorso maggio fu di 21 giornate lavorative, quindi a parità di giornate lavorative il risultato delle immatricolazioni si equivale. E anche questo incide, lo sappiamo, quante volte durante le festività, durante agosto, durante il Natale o alcuni mesi chiave abbiamo detto quanto incidano i giorni di festa. Parliamo brevemente di Fiat, professore, visto che è al centro delle prime pagine economiche non in questi tempi a livello di vendite? Fiat è la marca, o meglio è il gruppo automobilistico che in questo momento gestisce meglio di altri l'attenzione che il mercato italiano, grazie agli incentivi, riserva soprattutto alle vetture di piccola dimensione, quelle che soprattutto sono chiamate del segmento A, nelle quali classifichiamo Panda 500 ad esempio per Fiat, e in parte del segmento B in cui abbiamo Punto, Grande Punto e Ypsilon. Queste vetture crescono notevolmente nelle preferenze della clientela e così aumentano e triplicano addirittura rispetto all'anno scorso, tendono a quadruplicare addirittura le vetture a GPL immatricolate, più che raddoppiate sono quelle a metano. Siccome Fiat gioca tutte queste tre carte, le piccole vetture, il GPL su Panda, su Punto e su Ypsilon, oltre che su Musa, oltre che su Bravo, eccetera, abbiamo che il metano, che è quasi un'esclusiva di Fiat con poche altre integrazioni, fa sì che questo tris venga giocato con forza da una casa che si è mantenuta per tutto il mese oltre il 33% di quota del mercato, e così chiude questo maggio un'altra marca che fa un buon risultato e peraltro tra le estere forti, grazie anch'essa a una presenza forte nelle piccole dimensioni con la K e la Fiesta, riesce a consolidare un buon 10% della sua penetrazione sul mercato italiano. Eh beh, che non è male. Chiudiamo con una piccola, se possibile, previsione. Professore, sarà un'estate calda dal punto di vista automobilistico, secondo lei, come vendite, oppure insomma l'incertezza che regna nel campo globale porterà in autunno le vendite maggiori? Ma diciamo che l'estate normalmente è quel periodo nel quale la domanda rallenta un tantino, perché la gente pensa più a farsi qualche giorno di ferie e rimanda certo, magari all'autunno, l'idea della nuova vettura. Non di meno, in questo maggio gli ordini si sono mantenuti sopra le 190.000, vicino ai valori dell'anno scorso, pur essendoci anche dal punto di vista delle giornate commerciali, che sono state 25, una giornata in meno rispetto alle 26 dell'anno scorso. Così sarà la situazione di giugno e ancor più di luglio, mesi nei quali però le immatricolazioni si terranno su livelli molto simili a quelli dell'anno scorso, circa 187.000, ad esempio sì. 185.000 è la mia previsione che faccio sin d'ora per giugno, perché abbiamo un robusto portafoglio ordini, quello costituito dal brillante inizio di febbraio-marzo. E dopo gli incentivi, la nuova fase di espansione della domanda la vedremo in autunno, allora lì avremo un accumulo di ordini che sosterrà sia i mesi da settembre a dicembre, per ribaltare poi i suoi effetti, se gli ecoincentivi anche non fossero rinnovati, a certo, tutti i tre mesi del 2009, perché si può immatricolare avendo ordinato entro il 31 dicembre godendo degli ecoincentivi ugualmente. Questo l'11 febbraio è entrato in vigore, diceva il testo della normativa. Ci ha fatto compagnia l'analista del Sole 24 Ore Paolo Malagodi, grazie professore e alla prossima. A presto, risentirci. Allora, sapete che una volta al mese rubiamo un'inchiesta, un articolo particolare anche da Top Gear, che è uno dei cugini di Quattro Ruote, stesso editore, però rivolto decisamente a qualche prova un po' più folle, un po' più pazza e poi di grande derivazione anglosassone col programma televisivo, la rivista conosciuta in tutto il mondo. Ecco, la dirige questa bella rivista Marcello Minerbi. Caro direttore, buonasera e bentornato. A te, buonasera agli ascoltatori. Senti, ci sono tante cose ovviamente ogni mese di cui parlare, però abbiamo deciso insieme questa sera di parlare ai nostri ascoltatori della Toyota IQ o EQ, che così si voglia dire, però su Top Gear sembra strano, in realtà è una prova molto particolare che avete fatto. Sì, abbiamo voluto fare una prova veramente fuori dagli schemi, fuori dalle righe. Abbiamo preso la piccola e la piccola delle piccole, cioè la Toyota IQ o e la Chatney CH26, che è uno di quei baracchini, tra virgolette, sì, con il motore bicilindrico diesel che ti stacca la dentiera se sei un anziano che porta la dentiera sul pavé, e che sono piccole, che possono essere guidate senza patente e che per esempio sono un must per un pubblico di giovani, di ragazzi che non hanno la patente, hai capito? E che spesso e volentieri tendono a prepararle, a pistolarle e a... Sì, si prestano un certo tuning, effettivamente. Ecco. Tra l'altro io recentemente sono stato a Roma e ho visto che, insomma, va di gran moda la microcar, se così si vuole definire, le macchinette, come le chiama qualcheduno. Quindi è diventato anche un fenomeno sociale importante, spesso rivolto effettivamente ai più giovani, perché senza patente si possono guidare. So anche che ha una certa fortuna per coloro che perdono la patente per sospensione. Sì, è un business in questo senso, esatto, che poi è abbastanza singolare il fatto che uno gli tolgono la patente, gli permettono di andare in giro comunque con un'automobile, che è comunque sempre un'automobile, infatti, e non ha la patente. Infatti, infatti. Ecco. Che differenza c'è fra girare con un'auto, chiamiamola auto anche se la tira da piccola come la Toyota, e un'auto che piccolissima lo è veramente? Sì. Ha senso parlare di differenza oppure la città equilibra tutte le caratteristiche? No, il senso c'è come. La Toyota è, pur in dimensioni contenute, un'automobile vera, quindi ha un comfort, una silenziosità, una guidabilità assolutamente paragonabile a un'auto più grande e normale. La Chatney è un'auto piccolissima, dura come una cassapanca, molto rumorosa, molto spartana, con una tenuta all'acqua assolutamente inesistente. Io me la sono guidata in città nei giorni di pioggia e ti garantisco che uscivo dall'automobile tutto bagnato, perché mi passava dalle guarnizioni delle portiere. Però, insomma, questo è come andare in moto. Ecco, in pratica, però le dimensioni erano tali da permetterci veramente di giocarcela alla pari nel traffico, sì, con la IQ. Molto bene. Ma sul parcheggio forse con qualche vantaggio in più, perché è un po' più piccola. Decisamente. Senti, dobbiamo chiudere, però citiamo anche al volo una prova Nürburgring, due parole e ci diamo il buona serata, Marcello. Beh, allora, dal minimo al massimo, siamo andati da Milano al Nürburgring con una Maybach 57S e ci siamo presi la soddisfazione di farla girare sul mitico ring. Fantastico. Senza l'autista che ha voluto scendere perché aveva paura. Certo, non so chi di voi sia più pazzo, ma questo è un giornalismo davvero divertente per chi ama le auto. Trovate poi tutti i dettagli ovviamente in edicola su Top Gear appena uscito. Grazie Marcello Minerbi che la dirige. A prestissimo. Grazie ancora. Saluti a tutti. Chiudiamo adesso in bellezza la trasmissione parlando di Cinema in Sicurezza, un evento importante organizzato anche da Quattro Ruote. Ce ne parla Laura Confalonieri. Buonasera Laura. Buonasera a tutti. Ci siamo sentiti quando mancavano pochi giorni alla scadenza dell'invio dei filmati, adesso recuperiamo anche questa parola per cercare di capire di cosa parliamo, soprattutto per dire com'è andato questo evento, questo incontro che avete avuto a metà fra Quattro Ruote, Sicurezza e Cinema, Laura. Sì, devo dire è andato molto bene perché alla segreteria organizzativa del concorso sono arrivati oltre 110 video. Questa iniziativa quindi sta crescendo, l'anno scorso era aperta solo alle scuole milanesi, da quest'anno l'abbiamo aperta a tutta Italia e l'abbiamo conclusa proprio ieri con una grande manifestazione che si è tenuta qui a Milano, alla quale sono intervenuti oltre 1200 ragazzi un po' da tutta Italia per appunto ricevere i premi. E da tutta Italia, devo dire, sono arrivati i video, perché abbiamo avuto una grande adesione anche e soprattutto dal sud. Ecco, questo è importante. Cerca di fare un riassunto senza citarne nessuno in particolare, ma che cosa puoi dire di questi ragazzi interessati alla sicurezza attraverso la visione e l'analisi e lo studio dei loro video, Laura? Ma dunque, tutti hanno cercato di dare un po' il loro contributo cercando un'idea originale e devo dire che alcuni di loro ci sono anche riusciti in maniera particolarmente brillante. C'è stata una scuola per esempio che ha fatto una animazione tutta creata con i Lego, con situazioni da discoteca e poi di macchinine, altri ragazzi che hanno preferito il linguaggio del fumetto, altri ancora invece questi più grandi delle scuole superiori che si sono invece concentrati sullo script, quindi con una sceneggiatura molto bella anche se breve, per cui devo dire che ognuno ha dato il meglio secondo il proprio linguaggio, secondo anche ovviamente la propria età, perché c'erano tre diverse categorie, certo, di istituti, e devo dire che la qualità complessiva dei lavori che abbiamo ricevuto è veramente molto alta. Bene, questo fa onore alle nostre scuole, ai nostri ragazzi soprattutto. Per maggiori informazioni io vi rimando su quattroruote.it, sulle edizioni naturalmente pubblicate di Quattro Ruote, anche perché l'anno prossimo mi sa che ne riparleremo, perché ha avuto un ottimo successo questa iniziativa. Grazie davvero a Laura Confalonieri, a presto! Grazie a voi. Salutata Laura, adesso è il tempo di chiudere la nostra trasmissione, perché abbiamo terminato gli argomenti, ma soprattutto il tempo. Allora vi do appuntamento a sabato prossimo alle ore 21, oppure su radio24.it nella sezione programmi su Quattro Ruote dintorni. Ci siamo anche noi. La mail è quattroruote@radio24.it. Da Giacomo Spunta in regia, da Roberto Rasia in voce, a presto, buon weekend, ma soprattutto a tutti voi un'ottima guida.